cometa. E la mia pelle impermeabile non fa scendere lacrime, ma pagine su pagine vedo chi sembrava avere tutto chiaro. Perdersi in un bicchiere d'acqua, forse sei così vicino che ti perdi nei dettagli. C'è qualcosa che ti manca, ma la figura intera la vedi se ti allontani. Perché quelli come noi sono fuori dall'algoritmo, li riconosci subito, nemmeno pensi esistono. Quei punti nel cielo sembrano occhi che mi fissano, e quasi quasi vado a chiedergli consiglio. Vedo la gente cambiare come le stagioni, un mare di presentimenti, il male che si muove silenzioso tra i lampioni spenti. E tu vuoi amare un po' più forte, però ti accontenti, meglio spegnere i sentimenti. Sono caduto nel sonno e ho perso il conto dei giorni, parole come sonniferi perché ci avvicinano i sogni. E sto con le mani fra i capelli per tenere i pensieri fermi anche solo. Passata, come un presente che mi riconduce a dove sei stata. Cuore tiepido di Artemide, la voce più flebile. Non sento più le mani, sei in quelle notti gelide. Tra colpi di tosse e colpi di forze, la tua energia mi resta dentro attraverso la coltre. Ora che il mondo è pessimo e la vita mi rincresce, cerco vie più dense, le stelle sono le stesse. E se non mi fermassi più, dov'è il mio limite? Grandi quanto l'orizzonte sono le mie ripide. E quando tutto è simile, ora di stridere, la tua vertigine che ti porta ad incidere. Io so davvero farmi male se non ci sei. Le cose vanno avanti e sto fermo allo stesso frame. E se riuscissi a sanguinare come vorrei, sonniferi che mandano la mia mente in replay.